Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La storia era già belle scritta, solo che io non lo sapevo ancora. Così un pomeriggio, tornando a casa da scuola, una forza invisibile mi trascinò verso il motorino. Era ancora lì, immobile, inanimato, ferro inutile, in attesa di arrugginire in un deposito giudiziario. Sono Alessandro Bagordo, sono di Milano e di lavoro faccio il disoccupato. Avevo un Garelli del 1975, lo avevo messo a nuovo, ma nelle salite facevo una fatica bestiale. Allora ho pensato bene di togliere la marmitta. I miei compagni di scuola mi dicevano che mi sentivano arrivare da quando accendevo il motorino nel box. Antonio. Vacanza all'Isola d'Elba, agosto del 2003. Partenza da Agliana con una sfera 50. Campeggio a Porto Azzurro, io e altri due amici, con un booster e un altro con la Vespa. Traboccavamo di bagagli, ma andavamo da Dio. Non c'è niente di più bello che girare un'isola in motorino. Non lo scorderò mai, Massimo. 1972, avevo 16 anni, Ciao Blu. Partenza da Piacenza all'alba con mia sorella 14enne sul Ciao. Tutta la Valtrebbia fino a Genova. Mia mamma aveva allertato gli autisti delle corriere che conosceva e che facevano quella tratta di soccorrerci se ci avessero trovato in difficoltà. Non esistevano i cellulari. La spesa era stata inferiore alle 500 lire. La Valtrebbia aveva ancora tutte le sue stupende curve a precipizio. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09 e oggi la storia è veramente una di quelle che in qualche modo sono appartenute a tutti, perché non tutti hanno avuto un motorino, questo è vero, nella loro infanzia, o almeno non gliel'hanno comprato magari i genitori scoccati 14 anni o i 16 anni, però prima o poi in qualche modo hanno avuto a che fare con un mezzo motorizzato che in qualche modo racconta di loro e di cui loro conoscono i segreti. È il caso di Alessandro, che ha mandato la storia di oggi, che parla di un ciao. Tra l'altro, partendo da questa storia, io sono andato a cercare un vecchio libretto di un ciao, perché anche io ho avuto un ciao che non era mio, era di mio nonno, però mi ci portava in giro in campagna, e ho trovato questo vecchio libretto del ciao, e dopo voglio leggervi la presentazione del libretto Ciao Piaggio del 1978, forse 78-80. Quello che l'ha scritto è un genio assoluto, però ve la leggo più tardi dopo la borsa. Io ho il ricordo di quel ciao come un ciao bianco normale con cui mio nonno mi portava in campagna. Solo qualche tempo fa ho realizzato che mio nonno mi faceva guidare il ciao stando lui dietro e io in piedi sul predellino con i piedi vicini. Il predellino era veramente stretto, ma dicevo, solo qualche tempo fa ho realizzato che mio nonno è mancato nel 1985, io quindi avevo 10 anni. Questo vuol dire che mio nonno in campagna all'età di 60-65 anni mi faceva guidare un motorino tra gli 8 e i 9 anni. 349-238-6666, qualunque sia stato il vostro motorino, oggi raccontiamo la sua storia. La sua storia che è legata alla vostra, ovviamente, o a un episodio particolare. Fabrizio mi scrive: il mio ciao montava una marmitta espansione Proma, carburatore con getti maggiorati, filtro dell'aria modificato e puleggino, pistone cilindro Pinasco da 75 cc. E credimi, caro Alessandro, il mio sì che volava a 10 cm dalla asfalto. Anche Fabrizio si rivolge direttamente ad Alessandro, che è l'autore della storia di oggi. Oggi vorrei veramente che voi vi concentraste su questa idea, sul fatto che quando chiediamo di mandare una storia, chiediamo un episodio che racconti qualcosa di voi. Ascoltatevi la storia di questo ciao e poi ascoltatevi tutta la storia della vita di Alessandro, più tardi al telefono con lui. Adesso però Alessandro e il suo ciao. Erano 3 o 4 giorni che lo vedevo. Un ciao verde, bello, col variatore. Qualcuno lo aveva abbandonato lì, appoggiato a un palo, anomalia del paesaggio. Avevo 16 anni, una gran voglia di avere un motorino e una quantità inversamente proporzionale di denaro nelle tasche. Mia madre, poi, figurati, ai miei timidi accenni di comprare un motorino, sentenziava un «il motorino è pericoloso, pensa a studiare». La curiosità per quell'oggetto abbandonato aumentava sempre di più. Ogni volta che portavo giù il cane, andavo subito a vedere se c'era ancora. E c'era, sempre. E la mente dei miei 16 anni volava e pensavo, sicuramente rubato. Rubato e abbandonato lì per mancanza di benzina. Ma certo, è appoggiato al palo. Il ladro, nella fretta, non si è certo dato la briga di metterlo sul cavalletto. Ho sempre avuto la passione delle moto, e tant'è che ne ho ancora una, cioè attualmente una ho una vecchia Triumph, vecchia nel senso che c'ha 14 anni. Mi piace ancora andare in moto nonostante la mia veneranda età. La storia era già bella scritta, solo che io non lo sapevo ancora. Così un pomeriggio, tornando a casa da scuola, una forza invisibile mi trascinò verso il ciao. Era ancora lì, immobile, inanimato, ferro inutile in attesa di arrugginire in un deposito giudiziario. Montai in sella. Chissà se parte. Tirai il manettino, 2-3 pedalate furiose, via il manettino. Rumore, movimento, vento nei capelli, paesaggio che scorre all'indietro. Sensazione di nettissima libertà. Mio. Da adesso sei mio. Andai subito dal benzinaio, no, non quello dietro a casa. Avevo fra le mani un motorino rubato, era meglio non dare nell'occhio. Salve, quanto tiene sto serbatoio? Lui mi guarda strano, boh, se è a secco, secco, quasi 3 litri. Allora, un litro al 2. Un litro al 2. Che figata, ero diventato un motociclista. Mi diressi a nord, dove la periferia cedeva in fretta al passo alla campagna. Fuori dal caos della città, dritto nell'outback milanese, nel cuore della Brianza. Andavo via così, senza sforzo. La sola fatica che dovevo fare era di ruotare la manopola del gas, che per la maggior parte del tempo stava inchiodato al massimo. Il motorino da 49 cc mi frullava allegro tra i piedi. Una sensazione bellissima. Mi sembrava di volare a 10 cm dall'asfalto alla folle velocità di 50 km all'ora. Era quasi inverno, il freddo si faceva già sentire. Niente guanti, ma andai in riserva per ben 2 volte prima di accorgermi di avere le mani viola. Guardai l'orologio, 7:15. Se non volevo scatenare una guerra in famiglia, dovevo subito rientrare per cena. Sulla via di casa incrociai una macchina dei carabinieri. Mi fece ricordare che guidavo un motorino rubato, che non avevo un posto dove metterlo e che avrei dovuto inventare qualcosa per i miei. A loro dissi che il ciao me l'aveva prestato il mio amico Gabriele. Non avevo soldi per affittare un box, così fui costretto a ricoverarlo in cantina e ringraziai gli ingegneri della Piaggio per averlo fatto così leggero da permettermi di superare la ripida rampa di scale con sole 4-5 imprecazioni. Scorazzai in lungo e in largo con quel ciao verde per più di un anno, cagandomi addosso ogni volta che vedevo vigili o carabinieri. Era la fine degli anni 70 e loro avevano problemi ben più grandi del mio ciao rubato. O almeno fino ad una mattina di luglio. La scuola era finita. Si cazzeggiava aspettando solo di andare al mare. Fortuna volle che i genitori della mia ragazza erano via, così avevo passato la notte da lei. A mezzogiorno tornai a casa dai miei. Come entrai, mia madre aprì la porta e con un tono fra l'incazzato, il rassegnato e il preoccupato, insomma, un mix di emozioni che solo una madre di un figlio disgraziato può avere, mi disse: Alessandro, il motorino, cosa hai fatto? Che pensai, mi hanno cuccato bello bello. Già mi vedevo in manette salire sulla volante con la mano dello sbirro che sta attento a non farmi sbattere la testa sulla portiera, nel pieno sole di luglio davanti a tutto il condominio. Ci sedemmo e lei incominciò a parlare. «Lo conosci Malinverni?» «Quello del quarto piano», dissi. «Sì, lo conosco di vista». «Ecco, ieri sera, suona alla porta e mi chiede se tu per caso hai un ciao verde». «Tuo padre ha iniziato a sacramentare, sono andati in cantina». «Il ciao non è del tuo amico Gabriele, vero?» «No», le dissi. «Guarda, meno male che ieri sera eri dalla marina, sennò tuo padre ti ammazzava. Il motorino era di Malinverni e tu sei un disgraziato». Malinverni all'epoca era... Beh, quando io ero piccolo lui era un po' un rush del quartiere, insomma, era uno di quelli che contavano. Si parla degli anni 70, insomma. Non era un delinquente, attenzione, però era uno che si faceva rispettare, ecco. Avevo rubato il motorino a uno che conoscevo e che abitava nel mio stesso palazzo. Che figuraccia. «Stasera dopo le 7 vai giù dal Malinverni che ti aspetta», disse mia madre. La storia andò così. Il ciao era di Lucio Malinverni. Lo conoscevo, era più grande di me di 7-8 anni. Un ex guappo di quartiere. Ora era sposato, aveva un ottimo posto di lavoro, aveva una Volvo. Aveva messo la testa a posto. Io me lo ricordavo sfrecciare tuonando per il quartiere con la sua Honda CB754, con tanto di 4 in 1 Marvin e semimanubri Menani, un classico dell'epoca. Io sto ciao non l'avevo mai visto, se no non avrei combinato tutto sto casino. Fatto sta che Lucio aveva prestato il suo ciao al fratello Mario, uno sballato che aveva fatto un viaggio di troppo e l'aveva letteralmente dimenticato vicino al palo dove l'avevo trovato io. Quindi Lucio era convinto che il ciao l'avesse suo fratello. Dal canto suo il fratello se n'era ben guardato di dirgli di aver perso il ciao. Quindi io andavo in giro su un motorino che avevo sì rubato, ma di cui nessuno aveva denunciato il furto. Alle 7:10 di quella sera stessa suonavo il campanello di Malinverni con una bottiglia di Johnny Walker sotto braccio. Mi sentivo a disagio, per non dire che mi vergognavo come un ladro. Si apre la porta. «Ciao Alessandro, entra!» «Ciao Lucio, questo è per te», gli dissi. «Johnny Walker, grazie, ma sono io che devo pagare da bere a te. Ti devo veramente ringraziare. Mio fratello non ci sta più con la testa, manco si ricordava del ciao che gli avevo prestato per andare a lavorare. Sto pirla una sera si è ubriacato e l'ha lasciato in mezzo alla strada. Guarda, non l'avessi preso tu, il ciao, chissà dove sarebbe finito. Magari l'avrebbero rubato». Il Malinverni scoppia a ridere di gusto. Ride la sua bella moglie. Rido anch'io, ridiamo tutti. Che bello, per oggi non si va in galera. Mentre mi accompagna alla porta, mi ferma e mi fa: «Oh, Ale, se ti serve il ciao, prendilo pure, eh? È nel garage di mio suocero, basta che mi avvisi prima». «No, grazie», gli dissi. «Ho già messo gli occhi su un Fantic 125. Powder in your hair, staples in your jeans, fireworks at the water, you were holding the styrofoam cup, held between your teeth, telling me how you're going to outlive your body. Well, you said I wrote it down, it won't say. Manco a dirlo, parli di carburatori, di marmitte, e arriva una serie di messaggi come quello di Domenico che dice, se l'avessi trovato, sì, avevo il Piaggio, sì, con marmitta Proma e biella anticipata, tanta la compressione che partiva solo in discesa o con il trapano. E poi ancora Elena, ustione al polpaccio sulla maledetta marmitta e un medico bellissimo che me l'ha curata, ma non ci dice che motorino era. E poi ovviamente Gennaro che scrive: io con il mio ciao, che aveva il parafango posteriore tagliato, riuscivo a fare anche 3 km in penno, scritto in penno tutto attaccato. 349-238-6666, il vostro motorino, possibilmente il cinquantino, facciamo così, rimaniamo nei 50, nei non targati, o almeno una volta non targati. Ha fatto così Alessandro, che devo dire, quando prima ho fatto 4 chiacchiere con lui, credevo di parlare un po' del ciao, poi abbiamo parlato in realtà di tutt'altro. Pronto Alessandro? Pronto. Come stai? Bene, tu? Io sto bene, benone. Dove sei? A casa? Sono qui, sì, sono a casa. Partiamo da quel ciao. Il Malinverni. Malinverni. Che fine ha fatto? Deve abitare qui vicino perché ogni tanto lo incrocio. Comunque siamo buoni amici. Tu abiti ancora dove abitavi all'epoca, Alessandro? In questo momento sì, perché dopo la mia disoccupazione ho lasciato la casa e mi sono trasferito ospite a casa di mio padre. C'ha 90 anni, così gli sto anche un po' vicino. Perché dopo la tua disoccupazione, tu, come dici in apertura, che lavoro fai? Di lavoro faccio disoccupato, faccio tu disoccupato, dici. Sì. Prima mi spiegavi che è da luglio che sei senza lavoro. È da luglio, sì. Però adesso in realtà hai per le mani un lavoro, più o meno. Sì, ho commissionato un libro. Un mio amico filantropo. Bonifico mecenate. Come succede, scusami Alessandro, che un tizio che nella vita ha fatto tutt'altro, un bel giorno si trova qualcuno che gli dice: «Toh, ti do dei soldi per scrivere un libro». Ah no, dunque io devi sapere che dal 2002 circa scrivo in un blog che ha cambiato vari nomi, adesso si chiama www.motard.it. Ok, roba di moto comunque. Sì, è roba che è nata di moto, però è un blog che parla di un po' di tutto. Okay. Un gruppo di amici, ci conosciamo quasi tutti, e ho iniziato a scrivere lì, un po' per gioco, un po' così, a scrivere le mie impressioni, a scrivere storielle, così, poi piano piano che sono piaciuto e alla fine questa persona che curava questo blog mi ha detto: «Guarda, se vuoi, visto che sei in queste condizioni di indigenza, ti commissioni un libro, cioè un anticipo e vediamo un po'. Però Alessandro, tu non mi sembri uno che ha fatto fatica a trovare lavoro, perché mi raccontavi che tu hai cominciato in un modo, poi sei finito a fare il paparazzo a Los Angeles. Me la spieghi questa cosa? Beh, io ho fatto 5.000 lavori, ecco, non ho una carriera vera e propria, cioè non sono né idraulico né elettricista né geologo. Cioè non è una specializzazione? Non ho una specializzazione, questa è un po' anche la mia condanna, insomma. Beh, però qual è stato il primo lavoro che hai fatto, per capirci? Il primo lavoro che ho fatto? Quello serio, retribuito, tutti i giorni. Sì, in sì. No, in ufficio o non in ufficio, un lavoro per cui prendevi dei soldi, però. Sì. Il primissimo lavoro è stato andavo ancora a scuola, è stato in un'azienda di, non lo so, facevano cosmetici, andavo a lavorare di notte, facevo dalle 5 a mezzanotte, tipo una roba del genere, e poi con i proventi mi sono comprato una chitarra elettrica. Ok. Andavo ancora a scuola. Però. Ok, quindi suoni anche la chitarra, questa è una cosa che non... Che sì, non sì, sapevo. Suona. Poi hai fatto vari lavori, poi nel 2004 un tuo amico che è a New York che fa il fotografo, giusto? Sì, è lì fu il fotografo, adesso non è più negli Stati Uniti. Però insomma... Nel 2000. Lui è a New York, decide che preferisce star lì, si trasferisce a Los Angeles, sì. E ti chiama e tu dici, ma guarda, perché no? Sì, perché no? Perché ero un po' stanco di quello che facevo, ero un po', come dire, amareggiato anche. Che cosa facevi all'epoca? Ero responsabile delle risorse umane per una società di servizi, cioè mandavo la gente a lavorare. Io stavo in ufficio, facevo i colloqui. Ok. E, questo lavoro qua. Senti, come si fa a fare il paparazzo a Hollywood? Devi avere una macchina fotografica e tanta pazienza ed essere svelto. Ecco. Dimmi chi hai fotografato. Essere tenace. Ah, chi ho fotografato? Sì. Tanti. Tipo, fammi dei nomi. Nicole Kidman. Tom Cruise, Nicolas Cage, Madonna. Ma come sapevi Pamela dove? Anderson, come sapevi dove trovarli? Avevamo tutta una serie, avevamo degli archivi con gli indirizzi di tutti, di macchina, le targhe di tutti, quasi tutti. Guarda Alessandro, non abbiamo praticamente parlato della storia del Ciao né del Malinverni, però la cosa che mi incuriosisce del tuo tono, te l'ho detto anche prima quando ci siamo sentiti fuori onda, è che tu sembri raccontare questa storia con un distacco come se non fosse la tua. Ma che è un disturbo bipolare, non lo so. Senti, i progetti per il futuro, a te veramente non l'ho mai chiesto a nessuno, però a te la voglio chiedere. Dimmi quali sono i tuoi progetti per il futuro. Finire questo libro. Entro quando? Entro quest'estate. E poi? E poi non lo so, spero che qualcuno, ho mandato dei curriculum in giro, spero che qualcuno mi chiami. Ma no, non lo so. Li hai mandati... sono vecchio. Ma hai 50 anni, Alessandro. La mia età è difficile, sai? Ce l'hai ancora un Ciao sotto mano? Ce l'hai una moto sotto mano? No, c'ho una Triumph però. C'è una Triumph, che però non è proprio la stessa, non ha lo stesso immaginario del Ciao. No. Ti ringrazio Alessandro e in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. È un'atmosfera molto metropolitana quella che si respira nella fotografia che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui, la fotografia che ci ha mandato Alessandro, in cui lui è l'assoluto protagonista, ovviamente, perché questo chiediamo di mandarci un ritratto vostro dell'autore della storia. Però ripeto, è molto metropolitana, è notte, quindi sono le luci si vedono le ombre delle luci dei lampioni alle spalle di Alessandro, una saracinesca chiusa con una scritta anche, quindi davvero è a metà tra i guerrieri della notte e la Brianza alcolica. Lui è su una Kawasaki d'epoca, immagino, doppia marmitta, deve essere una roba un po' scrambler per chi se ne intende, e lui è vestito da motociclista, con pantaloni neri, stivali e giubbotto di pelle nera. Motorino, sostantivo maschile, comune, ciclomotore. Motorino d'avviamento, piccolo motore elettrico per l'accensione automatica e la messa in moto di un motore a scoppio. Etimo, derivato diminutivo di motore. Data 1955. Direi che è veramente una categoria, si sta delineando una categoria, quella dei motociclisti narratori. Io non la conoscevo per niente e ho cominciato a conoscerla grazie a questo programma. Però devo dire che il capostipite è stato sicuramente il Polpo, che ovviamente non manca di scriverci un messaggio dicendo: ciao, sono il Polpo, il mio ciao verde me l'ha rubato un tarro che si chiamava Antonio, detto Andò, e non sapeva fare una O con un bicchiere. Non so esattamente cosa significhi Polpo, che non sapesse fare una O con un bicchiere. È un modo di dire per uno che è ignorante. Ah, è proprio un modo di dire. Cioè, adesso voi mi state dicendo che per dire che un ignorante dice non sa fare una O con un bicchiere. Ah, perché il bicchiere fa già la O. Vai, Matteo. Vai. Però chi pensa che io immaginavo che dovesse far girare il bicchiere con un O. Certo, prendi, sì, il bicchiere e fai la O. Però non l'avevo mai sentito mai. Mai, vabbè, ma non è a mio discolpa. A questo proposito, invece, Alessandro ha scritto anche un ascoltatore sul profilo Facebook del programma, che dice: Alessandro, detto il COA, un occhio lucido sulle periferie metropolitane e la modalità in cui la nostra vita si intreccia con quella delle macchine. La sua scrittura è quasi pirandelliana. Mi sa che questo è quello che gli ha commissionato il libro. Quasi pirandelliana, per certi versi surreale, per altre materica, con sfumature sospese tra il riso e il pianto. Un grande. Noi abbiamo solo letto un racconto su un ciao e c'è bastato. Poi magari ci aspettiamo il resto. Prima ricordavo di mio nonno che mi portava sul ciao in campagna. Evidentemente non era l'unico, perché Gianluigi mi scrive una storia molto simile, che non era su un ciao però. Il califfone di mio nonno Giovanni mi scrive: ricordo che una notte mi portò in campagna ad allagare i campi. Quindi era un campè. Cioè, dalle mie parti, quello che allaga i campi è il campè. Lui, canotta, braghini e ciabattone, se ne stava seduto comodo su quel largo sellone. Io in piedi sulla pedaliera, dritto contro la fresca brezza notturna di quell'estate di tanti anni fa. Il califone sfrecciava veloce sul brecciolino delle strade di campagna e io tra le braccia di mio nonno Giovanni. Mi sentivo grande. 349-238-6666. Arrivano altri messaggi che parlano di quell'epoca. È veramente molto legata a quell'epoca lì, nel senso che i cinquantini adesso sono scooter sostanzialmente, quindi sono più che altro i ragazzi 14, quanti sono? 14 o 16 anni? 14 che vuoi prendere il cinquantino. Però adesso ti serve anche il patentino, mi sbaglio, no? Giusto? Sì, sono quasi sicuro che tu debba fare un patentino. Dicevo, i ragazzi prendono o gli scooter oppure i cinquantini, che quelli esistono sempre, i cinquantini che sembrano degli enduro 500 o delle moto da strada 250. Caballero usato, scrive Guido. Caballero usato, elaborato con cilindro cromato, 7 travasi, serpentone Polini e carburatore da 28. Io adoro questi, non ci ho mai capito niente. Questa era del carburatore del 18. Cosa vuol dire? Qual è? Mi dite per piacere, sto numero dopo il carburatore, cosa vuol dire? Cos'è? Il diametro di qualcosa? È la dimensione di qualcos'altro? Chiunque lo sappia, 349-238-6666. Il numero, la cifra che si trova dopo il carburatore, che cosa indica? Alberto, io avevo un Motron SV3R 6 marce. Ragazzi, ma dove vi prendevate? Io mi ricordo il 50. È vero che io ho 38 anni e probabilmente ogni generazione c'ha il suo motorino. Io avevo un Motron SV3 marce, 3R 6 marce, e il filo del gas sempre in mano. Immagina la scena a cambiare marcia. Il Benellino 3 marce, il Fantic monomarcia con marmita trapanata perché la proma costava troppo, schienale e portapacchi tutto pieno di adesivi. Luca da Bergamo. E vabbè, il messaggio, diciamo che vince su tutti, voglio immaginare che non sia vero, ma non è firmato. Dice: sul mio ciao, quando nevicava, montavo le catene ed era uno spettacolo. Speedway cittadino. Io non credo che esistano le catene per i motorini, però è anche vero che ormai mi piace credere un pochettino a tutto quello che arriva. Vi dicevo prima, a proposito del ciao, della storia di Alessandro e dei ricordi che tornano in mente a ognuno di noi quando si pensa a quel motorino lì. Io sono tornato a casa, ho cercato, sapete, nel cassettone che c'è nel garage, cioè nel garage di casa dei miei, cioè casa mia dove adesso stanno semplicemente i miei genitori, c'è un grande cassettone che tiene la roba che passa dal... è passata dal garage, no? Dai motorini, a delle robe delle macchine, a vecchie catene, vecchi creak che non si capisce come ci siano finiti. E lì ho trovato il libretto di manutenzione di quel ciao là, di quel ciao bianco. E vi assicuro che quello che ha scritto sta roba è un genio. Norme per l'uso del ciclomotore Ciao. Prima di mettere in servizio il ciclomotore, verificare 1. Che il serbatoio miscela sia rifornito. 2. Il livello dell'olio nel mozzo posteriore. Rifornimento miscela. Rifornire il serbatoio con miscela al 2%, vale a dire 20 cc di olio per litro di benzina tipo normale per auto. Impiegare olio di buona qualità per motore a 2 tempi. Olio consigliato IP2T. Presentazione del ciclomotore Ciao. La Piaggio le ha oggi consegnato un veicolo sicuro, efficientissimo. Piccolo capolavoro di meccanica, in cui la perfezione dei congegni si accompagna ad una rigorosa semplicità di progettazione. Congratulazioni, la sua è stata una buona scelta, la migliore. Il Ciao è un ciclomotore nel quale la Piaggio ha condensato la continuità della sua tecnica. Infatti, sotto la grazia di una linea pulita ed elegante, si celano strutture solide e un motore generoso, che hanno bisogno di poche cure per essere sempre in piena efficienza. In questo libretto lei troverà alcune semplici istruzioni. Le segua e il suo veicolo godrà ottima salute per tanti anni. Ora la salutiamo e, se permette, la salutiamo così come si salutano gli amici. Ciao! Che cosa vuoi che scriva? Di cosa vuoi che canti? Com'è facile andare quando non sai guidare, na, na, na, na. Di com'è triste il Natale senza mio padre, na, na, na, na, na, na. Che poi chissà perché ci si ricorda alla perfezione i dettagli di sti motorini. Cimatti 50 Cayman Cross, motore Minarelli P4SS anno 1970. Rosso, tutte le ragazze del paese sulla sella, Alessandro. E poi parliamo del numero del carburatore, perché ragazzi, se ha ragione Tiziano Bonini che parla della redazione diffusa e dice: se non abbiamo una cosa, se non la sappiamo, chiediamo agli ascoltatori, sono un bacino enorme. Allora, qua mi arrivano. Il numero dopo il carburatore sono il diametro del pistone, 1. L'altro il diametro del getto, 2. 3. Dimensione del condotto. Quale condotto? Il 28 va bene per moto da cross tipo 500, anche auto tipo Renault 4. 4. Il numero dopo il carburatore è il diametro del Venturi, dove passa aria più benzina. E poi dice: parliamo un po' di Vespe. Questo magari un'altra volta. Oggi si parlava di Ciao, e lasciami parlare del Ciao. Andrea, un ultimo messaggio che parla di un altro motorino che andava abbastanza di moda a quel tempo, però bisognava essere un po' dei manici perché aveva le marce, a differenza del Ciao che aprivi e andava. Garelli, grigio, un motorino obrobrioso, ma in Friuli nell'84 non eravamo così fighetti ed era bellissimo. Morto dopo cross vari tra il Carso e l'Isonzo e due altri possessori, i fratelli più giovani. Sono le 16:44 minuti, è venerdì, godetevi l'ultimo weekend d'inverno e ci risentiamo lunedì. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. Grazie soprattutto ad Alessandro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Gianluca, abito a Fiedociglia, provincia di Bolzano. La storia di lunedì è la mia e parla di mio nonno che è partito dal Veneto per arrivare in Africa. Questa è la mia storia e io sono qui.